228esima trasmissione dedicata ai nostri emigrati, a cura di Ottavio Valerio. Voci canore dell'Altro Friuli. Siamo noi questa volta, cari amici lontani, che invitiamo i vostri compagni di lavoro all'estero e precisamente i componenti del gruppo corale di Frauenfeld, Svizzera, e di Windsor, Canada, a intrattenervi con i loro canti. Più di una diecina di complessi corali seriamente organizzati, oltre a diversi gruppi folcloristici, sono sorti fra gli 84 Fogolars che oggi operano nei vari continenti. Riteniamo superfluo sottolineare che questi gruppi sono formati esclusivamente da lavoratori che, dopo la dura fatica del giorno, compiono anche 20-30 chilometri per non mancare alle prove. Ma quel ritrovarsi insieme a cantare dà loro la sensazione di ritornare in spirito al mai dimenticato paese natale. Se qualche rilievo di carattere tecnico si può fare in merito a talune esecuzioni, non per questo esse sono meno ricche di espressione e di calore, alimentati dal ricordo e dalla struggente nostalgia per la patria lontana. Del gruppo corale del Fogolar di Frauenfeld, assai apprezzato in due indimenticabili manifestazioni svoltesi lo scorso anno in Friuli e a Milano, e che sta mietendo sempre maggiori successi anche nei capoluoghi cantonali della Svizzera, ascolterete ora, sotto la guida del maestro Luciano Andreatta, la scherzosa composizione di Cesare Augusto Seghizzi, Se ti toci ne manine. Se ti toci ne manine, al di là salto moro, al cielo sto che la disi, toccetto, c'è tu, fido. Un canto che commuove ed esalta non soltanto i nostri connazionali all'estero, ma anche gli ascoltatori stranieri, è questo di Domenico Modugno, armonizzato dal maestro Andreatta, La bandiera. Bianca, rosa e verde, pari di quello di Frauenfeld, anche il coro del Fogolar Furlan di Windsor, Canada, sta svolgendo un'attività intensissima, entusiasmando il pubblico dei vari centri dell'Ontario e del Quebec. Composto anch'esso da una trentina di elementi, egregiamente preparati e diretti dal maestro Umberto Rizzi, vi presenterà ora una piccola fiorita di popolari villotte. Queste viole palidute, olin giol di l'allegrie, le ben ver ch'io mis lontani. Thank you. Con questo canto che sa di promessa e di speranza, vi salutiamo, cari amici lontani, augurandovi salute e fortuna. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ottavio Valerio.